Siamo con Monica Stambrini, regista del film Io sono Valentina Nappi, in tour dal 29 maggio. Monica, benvenuta, ben trovata. Grazie, ben trovato anche tu, anche voi. Beh, Come lo presenteresti? innanzitutto è molto emozionante essere al cinema con un film come Io sono Valentina Nappi e anche qui in Kong, perché poi in contemporanea si proietterà almeno a Milano, Bologna, dove King Kong non è stato proiettato così tante volte, anche qui in Kong. Quindi diciamo che la cosa emozionante, al di là poi del film, che può piacere o no, è proprio il fatto di poter andare sedersi in una sala e vedere un film vietato, diciamo, per un pubblico, per un'audience matura, come si dice ancora in Italia, vietato ai minori di 18 anni, tranquillamente seduto a un cinema con un pubblico, senza che questa diventi una cosa, diciamo, illegale, no? Perché fino a poco tempo fa, insomma, Ultimo Tango a Parigi è uscito proprio nelle sale lunedì, martedì, Sì. mercoledì nel cinema di tutta Italia per tutti, senza nessun visto censura, cioè con nessuna indicazione di vieto, no? Sì. E fino a 30 anni fa era un film che era stato giudicato in corte d'appello, messo a rogo, insomma, quindi è interessante, ecco, il rapporto che c'è tra la censura e il cinema. All'inizio c'era stato un progetto collettivo, Le ragazze del porno, di cui abbiamo parlato proprio con te per il tuo segmento. King Kong nasce un po' in quel contesto. Da allora, insomma, hai fatto un passaggio ulteriore. L'incontro con Valentina Nappi, che appunto era la protagonista di King Kong, mi ha portato poi a fare quest'altro lavoro, perché Valentina, ci siamo ovviamente trovate bene e ci siamo esaltate, sia io di usare il linguaggio pornografico, sia lei di usare quello cinematografico, e quindi ci siamo trovate, diciamo, in questa terra no man's land, ancora per poco, e ci siamo incontrate, e quindi lei mi ha proposto di fare un film diversamente da King Kong, più a basso budget, concepito per essere girato, insomma, e per essere distribuito anche via web, come i porno, insomma, che potesse avere una diffusione. E allora io ho accettato, perché appunto, anche se stavo scrivendo il mio lungometraggio con cui vorrei tanto andare a Cannes e agli Oscar e tutto quanto, però comunque qualsiasi proposta mi viene da parte di Valentina, e anche forse dal suo personaggio, no? Cioè anche dal mondo della pornografia, in qualche modo mi incuriosisce, perché è un tema che sento, come dire, ancora, che ancora non mi ha annoiato, no? E quindi così è nato Io sono Valentina Nappi. Poi ovviamente, mettendoci anche io l'occhio, ho incominciato a farlo diventare un po' più grande, quindi ho coinvolto anche dei collaboratori, quindi anche lui, come King Kong, gode di collaboratori molto speciali, no? Quindi c'è lo scenografo Gianni Brugnoli, c'è il direttore della fotografia, che è Sandro Chessa, tutta gente di cinema, c'è la montatrice, che è Paola Freddi, con cui lavoro sempre, che insomma è una delle grandissime montatrici di cinema. E poi dopo, siccome quando giravamo avevo sentito, Valentina mi aveva fatto sentire il pezzo di Bello Figo che aveva fatto Io sono Valentina Nappi, mi ero esaltata, no? Ho detto: ma questo è bellissimo, dovremmo assolutamente usarlo nel film. E quindi da lì mi si è aperta la possibilità di coinvolgere anche dei musicisti italiani importanti. E quindi c'è il pezzo di Vasco Brondi, delle luci della centrale elettrica, che si chiama Punk Sentimentale. E poi dopo, no, a quel punto ci sono dentro anche gli Eroini in Tahiti, sono dentro anche gli Eroini, ho sentito questo pezzo bellissimo, scusa perché c'era qualcuno, allora stavo facendo, mi sono distratto un attimo. Ho sentito questo pezzo stupendo degli Eroini in Tahiti, che poi sono i ragazzi di Nero Magazine, che quindi hanno fatto anche la grafica. Quindi, diciamo, è diventato un insieme di collaborazione artisti, quindi non ci sono solo io, non c'è solo Valentina, ma c'è tanta altra gente, e questo è anche forse quello che impreziosisce, cioè arricchisce veramente il lavoro. Sì. Un'altra curiosità, prima parlavi appunto di curiosità legata alla pornografia, e che concetto hai, cosa rappresenta per te? Un mondo vastissimo. Beh, innanzitutto sarebbe da chiedersi dov'è il limite tra cos'è pornografia, cos'è arte, cos'è cinema. Certo. No? Dov'è, forse come in tutte le cose mi piacciono più le cose che stanno ai limiti, cioè, che stanno un po' così borderline, no? Con un piede di qua, un piede di là. La pornografia ovviamente mi incuriosisce in quanto è legata alla sessualità, credo sia uno dei temi più misteriosi, più affascinanti e che coinvolge tutti noi, no? Tanto che è una delle cose di cui si parla e si pensa sempre nella vita, però la pornografia in sé forse, io non sono una grandissima fruitrice, perché un po' a volte mi svuota, mi lascia un po' così svuotata, però questo in generale, no? Però poi invece se cerchi un autore o una performer o un performer, qualcuno dove trovi, no, un legame, dove trovi una profondità, qualcosa, allora può essere affascinante come qualsiasi forma, diciamo, espressiva, anche d'arte, no? O comunque di comunicazione. Sì, anche perché poi, diciamo così, tra virgolette, l'autoproduzione con i vari canali che si sono aperti in rete ha tolto quell'aspetto di sfruttamento della sessualità che aveva negli anni precedenti. In più mi chiedo, insomma... Non so se l'ha mai avuta, sai, veramente, fino in fondo. Cioè, poi se l'ha avuta dal momento in cui la gente... dove c'è mercato, no? Dove c'è business, potenzialmente c'è sfruttamento. Però ad esempio negli anni 60-70 è stato più che altro uno strumento di liberazione, certo. Esatto. Come adesso io ad esempio gli home video, a me sono tra le cose che mi affascinano di più, perché ovviamente un po' c'è quel confine, di nuovo lì parliamo di confini, c'è quel confine tra il privato, no? Quella cosa dove tu non sai quanto è vero o quanto è una messa in scena, e che io quello lo trovo molto affascinante a livello proprio di linguaggio, e poi anche forse a livello così voyeuristico, no? Sì. Però io credo che veramente parlando di pornografia si apre, come dire, cosa ne pensi del, non so, della pittura? Cioè, ci sono delle cose che mi piacciono molto, altre no, cioè è proprio un mondo enorme. Sì. Anche il discorso che facevi sul limite mi fa venire in mente il fatto, per esempio, se non ci fosse un problema di censura, chissà quanti autori e autrici cinematografiche avrebbero rappresentato il sesso in maniera evidente. Ma certo, ma sai che quando eravamo, diciamo, no, più brillanti, più attive come ragazze del porno, tantissimi registi importanti italiani, perché quelli che incontravamo così per strada, nelle feste, insomma, in giro, i nostri amici, ci chiedevano, magari anch'io vorrei troppo farne uno. Quindi, ma così è nato il progetto Ragazze Porno, cioè che io ho incominciato a chiedere a delle registe anche tra le più impensabili, tipo Lina Wertmüller, vorresti fare un film porno? E la prima istintiva risposta era un sorrisone con magari. Quindi sicuramente è un tema che attira molti. Poi bisogna vedere come uno poi lo vuole fare, ma poi ci sono gli impicci, no? Cioè ci sono tutte le difficoltà, gli attori, cioè a quel punto, no? Forse un attore è quello che si espone di più rispetto ancora a un regista, in sì, qualche modo. Sì. Non parliamo di un produttore che ci mette i soldi, che quello proprio si espone talmente tanto che infatti non riesce a farli. Sì, sì. In chiusura, Monica, ci lasci dei riferimenti web per seguire questo nuovo lavoro? Allora, mi sono totalmente annoiata delle pagine Facebook, quindi non... Allora, avremo oggi una pagina, un evento. Allora, Pagine web, panico. Allora, abbiamo queste maledette pagine web. Diciamo che stiamo cercando di sparpagliare qua e là l'evento, però sicuramente sulla pagina di Filmmaker, che è il festival milanese che in qualche modo sponsorizza e promuove questa proiezione milanese e che ha dato anche poi il via a questo tour, si trovano tutti le indicazioni per la proiezione. Poi sulla mia pagina Facebook Monica Stambrini si trovano, io posto sempre gli eventi, gli articoli, ma soprattutto le date quando saranno. Perfetto. Adesso poi ve le ripeto. E poi c'è la pagina anche di Valentina Nappi, oltretutto metteremo a breve anche un trailer uncensored sulla sua pagina di Pornhub. Quindi cercare che proprio ieri ha fatto una dichiarazione dicendo questa è la mia nuova, il mio nuovo Facebook, mettendo la screenshot della sua pagina di Pornhub, quindi uno può andare anche direttamente su Pornhub e vedere su Valentina Nappi il trailer non censurato di Io sono Valentina. E poi con Nero uscirà a breve la promozione per l'evento del 1º giugno che si farà al Blue Moon a Roma e poi dopo ci sarà una festa alla fine che è la serata curata sempre dai Nero e poi a Bologna presso il Kinodermo, quindi sulla pagina del Kinodermo ci sono tutte le informazioni sia di Facebook che web, che credo sia kinodermo.com, si trovano tutte le informazioni della proiezione del 29 maggio. Ti faccio un Perfetto. breve riassunto delle date. Va bene. Bologna, 29 maggio, ore 19, c'è un incontro con le ragazze di Inside Porn e poi alle ore 21 c'è la proiezione al Cinema Europa che è dietro l'angolo e poi dopo ci sarà un closing party della stagione del Kinodermo. E ci siamo presenti io e Valentina. Poi il giorno dopo a Milano, il 30 maggio, alle ore 21 al Cinema gloriosissimo, storico, bellissimo cinema Arcobaleno, grazie a Filmmaker facciamo la proiezione e incontro sia di Queen Kong che di Io sono Valentina Nappi, anche a Bologna c'è anche Queen Kong, e poi l'1 giugno dalle 19 in poi al Blue Moon, che è un storico locale, uno dei pochissimi, forse uno dei pochissimi insieme al Cinemavorio locali di cinema hard, luci rosse, ancora attivo a Roma. Ed è l'unico posto dove hanno trovato la possibilità di farlo, perché a Roma per assurdo mancano i cinema indipendenti. E dopo, quindi dalle 19, diciamo la proiezione sarà più o meno alle ore 20 di Io sono Valentina Nappi e poi verso le 10:30 Valentina mette la musica alla fine al Piccolo Eliseo in Via Nazionale, che è dietro l'angolo. Bene. Monica, un abbraccio e a presto. Grazie tantissimo, un Ciao. abbraccio a te e a tutti.